Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, anche da parte di Gigi Borghi in redazione, di Pietro Lacorte in regia, e buona Pasqua naturalmente. Abbiamo un'ora di tempo per raccontarvi questa 31esima di Serie A e per parlarne insieme. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, messaggi 349-238-6666. Ma più importanti sono i numeri del campionato, di questa 31esima, numeri che dicono di un Inter che rallenta, pareggiando 2-2 in casa con il Palermo, dopo un primo tempo segnato dai gol di Balotelli e di Ibrahimovic su rigore. Un Inter che poteva chiudere la partita, ha avuto diverse buone occasioni con gli stessi due protagonisti, proprio Ibrahimovic e Balotelli, che hanno sbagliato due gol anche piuttosto facili. E nel secondo tempo invece il Palermo agguanta meritatamente il pareggio con Cavani e Succi in due minuti, 28esimo e 30esimo, e nel finale va vicino anche alla vittoria. Dunque l'Inter che rallenta, vedremo cosa faranno stasera Genoa e Juventus in un campionato che però non mi sento di definire riaperto, qualunque sia il risultato del posticipo anticipo di questa sera. Poi il Milan risponde nella corsa verso il terzo posto, verso la Champions League, vincendo 1-0 a Verona con il Chievo, gol di Seedorf, partita non bella, non brillantissima dei rossoneri, che hanno rischiato anche il gol del pareggio, un pareggio che non sarebbe stato fuori luogo. Ma c'è stato il derby di Roma, un derby pazzo, come spesso accade. La Lazio in 5 minuti segna 2 gol, con Pandev e con Zárate. Quindi Mexès al decimo, e siamo ancora nel primo tempo, è già successo già più episodi di quanti spesso ne vediamo in una partita intera. Al decimo Mexès in mischia, dopo un corner segna il 2-1, la Roma colpisce un palo al 37esimo con Julio Baptista. Nel secondo tempo gol e nervosismo, al 13esimo Lichtsteiner fa 3-1, poi al 18esimo espulso Panucci, al 30esimo due rossi, uno per parte, Mexès e Mattusanem, siamo 10 contro 9. Colpo di testa di De Rossi al 35esimo per riaprire il discorso 3-2, al 40esimo Kolarov prende la palla dal suo portiere, avete capito bene, si fa tutto il campo indisturbato, arriva al limite dell'area, salta un paio di giocatori, ma che non hanno fatto molto per ostacolare la discesa del terzino laziale, quindi piazza un destro sul palo, vicino al palo, e Doni non è impeccabile del gol del 4-2, questo è il risultato finale della partita. C'è un solo 0-0, quello di Napoli, Napoli-Atalanta, Napoli che non vince più, 4 pareggi consecutivi nell'era Donadoni. Cambiano diverse cose, la Fiorentina batte il Cagliari 2-1, Pasquale Vargas, mentre nel finale per il Cagliari segna un 17enne, tale Ragazzu, suo primo gol in Serie A naturalmente. Cambiano diverse cose in coda alla classifica, perché il Bologna dimostra di attraversare un periodo nero, crolla letteralmente in casa con il Siena, 4-1 il risultato finale tra le contestazioni del Dallara. Il Lecce si arrende in casa con la Sampdoria 3-1, e quindi due serie indiziate per la retrocessione oltre alla regina sono, che giocherà domani lo ricordiamo a Udine, sono proprio Lecce e Bologna, che stanno attraversando che sono mi sembrano in pessime condizioni. Il Torino non gioca una gran partita, ma con il cuore anche un po' di fortuna nel finale la porta a casa 2-1 con il Catania. 37esimo del secondo tempo segna Rolando Bianchi, e c'è il primo sorpasso del Bologna sul Torino, sorpasso virtuale naturalmente, dura pochissimo, dura 2 minuti, perché poi segna Martinez per il Catania al 43esimo, a 2 minuti dal 90esimo invece Natali dà al Toro la vittoria. Questi i risultati, invece questa è la classifica: Inter 73, Juventus 63, Milan 61, Fiorentina 55, Genoa 54, Roma 49, Palermo 46, Cagliari 45, Lazio 44, Atalanta 42, quindi una coppia a 40, Napoli e Sampdoria, un'altra coppia a 37, Siena e Catania, Udinese 36, Chievo 31, Torino 27 e oggi sarebbe salvo, Bologna 26, Lecce 24, Regina 20 punti. Partiamo dalla gara di San Siro, quella della capolista. La vista Massimo Callegari. Ciao Massimo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Una valutazione sull'Inter. Mi sembra un primo tempo discreto, quello dei nerazzurri, una ripresa così così. Sì, il primo tempo è stato probabilmente uno dei migliori della stagione, assieme a quello con il Napoli, soprattutto avendo come parametro il livello dell'avversario, no? Perché l'Inter ha giocato con grande attenzione al possesso di palla, l'ha fatto in maniera a volte anche molto, molto tranquilla, molto lenta, però mantenendo sempre l'iniziativa, cercando di lavorare proprio sulle sue capacità, poi anche di potenza in fase offensiva, l'ha fatto molto bene, ha creato diverse occasioni dal decimo alla mezz'ora circa e ha trovato i due gol. Il primo è arrivato grazie a Ibrahimovic, che ha avuto un merito notevole di andare a pressare Kier su un pallone che era quasi perso, ha guadagnato il pallone laterale, lo ha battuto velocemente e Muntari poi ha crossato bene per Balotelli, che era partito in posizione regolare, però poi ha chiuso il suo movimento alle spalle dei difensori centrali. Questa è stata una delle chiavi, no? Del primo tempo, nel senso che Mourinho sicuramente dal punto di vista della manovra quest'anno ha mostrato poco, però dal punto di vista delle situazioni create ed elaborate anche prima della partita, in rapporto alle caratteristiche degli avversari, ha avuto dei meriti, e questo è stato uno dei meriti della giornata, cioè portare sempre un uomo più Balotelli di Ibrahimovic tra i difensori centrali avversari. Poi l'Inter ha trovato il raddoppio sul calcio di rigore che Ibrahimovic ha conquistato su Kier, poi la moviola non era mai vicina, come guarda, te lo dico io, te lo dico io. Fosse, ma... no, sì. Ma te lo dico io, è di moda la parola rigorino, no? È uno di quelli, il contatto tra Kier e Ibrahimovic che è un omone, si lascia cadere per terra, insomma, non mi è sembrato un rigorino piuttosto, era più evidente invece pochi istanti prima un fallo su Muntari, che ha spostato la palla davanti al naso di un difensore palermitano, non ricordo chi fosse, forse Cassani, e lì effettivamente il rigore ci poteva stare. Quello su Ibrahimovic un po' meno, difensori centrali del Palermo carrozzieri su tutti, molto distratti nel primo tempo, perché sul gol di Balotelli grosse responsabilità di Carrozzieri, che subito dopo si è fatto bruciare di nuovo da Balotelli, che ha sbagliato un gol piuttosto facile sull'uscita di Amelia. Massi. Esatto, questo già sul 2-0. L'Inter ha avuto naturalmente in quel momento poi la partita totalmente in mano. Il Palermo ha giocato con Liverani, che già inizialmente aveva qualche problema, è rimasto però in campo fino al 25esimo, quindi quella è comunque una scelta che del giocatore condivisa con l'allenatore, però quando si ha un giocatore che non è nelle migliori condizioni è una scelta e non può essere un alibi quella di mantenerlo comunque in campo, per quanto sia importante come lo è lui. Certo. Per il Palermo è entrato Bovo, il Palermo si è posizionato male. Massimo, Massimo, sì. Hai voglia di sentire insieme Mourinho con Sky? Eccolo. Sì, la squadra con ritmo, con intensità, con qualità, giocando bene, credendo, segnando, potevo ovviamente segnare di più. Il Palermo non ha avuto un unico tiro in porta, non ha avuto un unico calcio d'angolo, colpa nostra penso, perché abbiamo giocato veramente bene. Secondo tempo completamente diverso, dal primo minuto si è visto un Palermo diverso e un Inter diverso per la negativa, senza la stessa concentrazione, chissà pensando di modo sbagliato che la gara era finita. Un 2-0 è sempre un risultato molto pericoloso. Il Palermo, anche prima di segnare il suo primo gol, già mi sembrava a me molto molto vicino, perlomeno mi sembrava già la mia squadra con qualche difficoltà. Quando mi preparavo per fare un cambio, che dopo l'ho fatto con il 2-1, la squadra ha sbagliato difensivamente, Cavani ha segnato 2-1 e dopo subito, senza la squadra aver tempo di stabilizzare il suo gioco, il 2-2 è un risultato che ovviamente non piace, che lascia l'Inter a 10 punti, chissà 9, chissà 7, sia la peggiore della possibilità e andiamo a 7. 7 è un numero che noi la settimana scorsa pensavamo tanto di mantenere, non di aumentare. Però io ho sentito già il fine dello sconcerti, ho sentito gli ultimi 10-15 secondi, mi sembrava dire che sembra che la Inter non vuole chiudere il campionato, sembra, perché ovviamente vuole, però ha perso una grande possibilità di uscire di qua oggi a 12, 11 o 9, però mancano 7 partite, se abbiamo 7 punti di differenza non è chiuso, ovviamente non è chiuso, però è un vantaggio che se qualcuno a luglio mi dice tu sarai in aprile con 7 partite per giocare, con 7 punti di vantaggio, io accetteria subito. Massimo Callegari, hai presente quelle maschere con due facce, no? Una che piange e l'altra che ride. Oggi le hanno indossate tutte e due, sia l'Inter che il Palermo, a fasi alterne. Nel secondo tempo cos'è successo? Cresciuto senz'altro il Palermo, che aveva la faccia che rideva, ma per l'Inter che cosa è capitato? Sì, calo fisico? No, non credo, nel senso che l'Inter era anche discretamente brillante, forse sicuramente un'attenzione diversa, poi anche situazioni tattiche differenti, perché quando Bovo è entrato nel primo tempo al posto di Liberani si è posizionato a sinistra quasi in difesa e non era ben chiaro se Palermo si difendesse con tre centrali per dare una copertura in più rispetto a quello che c'era stato all'inizio o se invece Bovo facesse quasi l'esterno sinistro. Poi nel secondo tempo invece era chiaro che il Palermo ha difeso con tre difensori centrali e lì ha creato una situazione tattica diversa che poi è diventata 3-4-3 quando è entrato Succi al posto di Nocerino e Simplicio ha arretrato la sua posizione e questa è stata sicuramente una chiave della partita. Poi l'Inter nella sua fascia sinistra in difesa con Muntari che non copre mai, non dà mai la copertura al raddoppio al difensore, quindi di parte l'uomo alle spalle, e con Maxwell che ha delle difficoltà comunque in fase difensiva, lì l'Inter ha faticato, ha sofferto tantissimo. In quella zona sono nati i pericoli, è arrivato certo. Poi un grande esso di Cavani dal limite e poi sono arrivati i due gol, di cui il secondo proprio con Maxwell superato dal pallone, Miccoli l'ha tenuto in campo e ha segnato Succi. Addirittura Miccoli alla fine stava per segnare certo. Il 3-2. L'Inter, Carlo, anche come alternative sembra paradossale per il nome dei giocatori, ma il valore in questo momento è quasi opposto al loro nome, alla loro carriera, ha dei limiti di organico che deve colmare per altri livelli il prossimo anno, perché Vieira e Figo sono entrati nel secondo tempo ma hanno dato un apporto zero. Di questo parliamo domani, se sei d'accordo Massimo, approfondendo il discorso. Sì, volentieri. Però un'ultima considerazione, mi sembra che l'assenza di Julio Cesar e di Maicon si sia sentita parecchio. Oggi Santon ha giocato nel suo ruolo sulla destra, però appunto tu dicevi come la coperta fosse cortissima, quasi inesistente sulla fascia sinistra da cui sono arrivati i pericoli del Palermo. Aggiungo anche che insomma, non abbiamo ovviamente la controprova, però il gol di Cavani segnato sul palo di Toldo, non sono così convinto che Julio Cesar l'avrebbe incassato. Sì, beh, era anche una situazione al limite, nel senso che Cavani... Palo del portiere, Massimo, palo del portiere quello. Sì, quello... palo del portiere, sì, sì, quello è vero. Quello è vero, Toldo aveva compiuto una bella parata prima, più che altro sulle uscite, insomma, ma è una cosa che fa parte un po' della sua carriera, ha avuto un paio di esitazioni, però del resto vale sempre il discorso che è stato fatto anche per Buffon, quando poi un portiere gioca dopo tanto tempo, anche se non è un giocatore di movimento, certo. Certi riferimenti magari possono mancare. Santon nel primo tempo ha avuto delle difficoltà a destra, poi dopo ha giocato meglio sia da una parte che dall'altra. Mi sembra che Mourinho però avesse chiaro che i problemi dell'Inter potevano arrivare dalle due fasce, perché nel primo tempo e anche dopo Santon e Maxwell hanno spinto poco, quindi era chiaro questo, però non è stato sufficiente a gestire il vantaggio. Grazie Massimo, ci sentiamo domani. Buona Pasqua e ci sentiamo domani per approfondire i temi del campionato. Domani avremo un'ora di tempo, dalle 17 alle 18 parleremo di calcio ma non solo. Adesso però andiamo di corsa all'Olimpico per raccontarvi un incredibile, ma spesso accade, quasi un abituale derby di Roma nella sua follia. Marco Montanari vince la Lazio 4-2, interrompe la striscia delle tre sconfitte consecutive e lo fa nella partita più sentita e nel modo più curioso. Perdonatemi il termine. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico di Roma. Diciamo subito, un derby anomalo, 6 gol e 5 espulsioni, perché alle 3 maturate sul campo dobbiamo registrare anche le 2 maturate alla fine del primo tempo, quello ovvero di Spalletti e del dirigente Dare, che sono venuti così, hanno avuto uno scontro verbale, quindi il direttore di gara ha espulso anche i due. Infatti nel secondo tempo c'era Dominichini a dirigere le operazioni. Quindi 3-2 per quanto riguarda le espulsioni, no? Sì, se esattamente. 3-2 per la Roma in questo caso. Per la Roma in questo caso, sì. Diciamo che il derby era iniziato molto bene anche dal punto di vista ambientale. Purtroppo dobbiamo però registrare dei problemi di ordine pubblico sul finire della partita. In particolar modo in Tribuna Tevere sono dovute intervenire le forze dell'ordine per separare le due fazioni dei tifosi. Ripeto, questo è una brutta nota, visto che sì. Si era veramente aperto la giornata con la raccolta sia di fondi che di scorte d'acqua da parte delle due tifoserie, da consegnare poi terremotati dall'Abruzzo. È un epilogo che assolutamente non volevamo vedere. Sul campo un tempo per uno. Roma molto bene nei primi 45 minuti, nonostante il doppio vantaggio della Lazio. Al secondo minuto con un con Pandev sul liscio di Mexes, e 60 secondi dopo con un gran gol, un gran tiro da fuori di Zarate che si infila sotto al 7. La Roma prova a reagire, ci riesce al nono con Mexes che in aria riesce a rubare palla, a battere Muslera. Muslera che era stato straordinario 60 secondi prima su un colpo di testa di Motta con la deviazione in corner, da dove poi è nata il gol del 2-1. Sullo scadere Roma sempre pericolosa con Batista, traversone dalla tre quarti, il brasiliano salta il più alto di tutti con il pallone che però va a cozzare sul palo. Nella ripresa la Lazio però esce fuori e matura il 4-2 finale con Foggel al dodicesimo che lavora un buon pallone sulla destra, attraverso dal centro Steiner anticipa tutti, Doni un po' in ritardo, difesa assolutamente disattenta nell'occasione, quindi il gol del 3-1. Dal 35esimo arriva il 3-2 di De Rossi, però in questo frammezzo c'è da registrare l'espulsione di Panucci al 16esimo per doppia ammonizione e la doppia espulsione al 29esimo di Mexes e Matusalem. Si è acceso una campanella all'interno del campo, il direttore di gara ha proceduto ad espellere i due. Come detto, il 35esimo De Rossi riapre la partita con un preciso colpo di testa, però al 40esimo Kolarov parte dai 30 metri, Roma che era in 9, quindi chiaramente con una posizione non corretta in campo, tiro morbido, più di una la responsabilità del portiere, sì. Doni, e quindi il 4-2 finale. Sì, imbarazzante questo quarto gol, vabbè che erano 10 contro 9, partita ormai rotta, però è raro vedere in Serie A un giocatore, nella fattispecie Kolarov, che raccoglie il passaggio dal suo portiere, da Muslera al limite dell'area, si fa tutto il campo indisturbato facendo tutta la fascia sinistra velocemente, ma non con velocità da Speedy Gonzales, insomma, anche perché non ha quel passo il giocatore della Lazio. Arriva al limite, salta un primo uomo, ne salta un secondo che è Rise, che non danno esattamente l'idea di essere dei morossi insuperabili, e quindi piazza un destro piuttosto morbido vicino al palo con Doni che si allunga in netto ritardo. Questo dà un po' l'idea del momento della partita della Roma. Grazie a Marco Montanari, dunque, dall'Olimpico. Vi abbiamo raccontato il derby che finisce 4-2 per la Lazio per quanto riguarda i gol, 3-2 per la Roma per quanto riguarda le espulsioni. Oltre a quelle in campo, ci diceva giustamente Marco Montanari all'intervallo, Spalletti da una parte, Tare dall'altra, che si sono presi a quanto pare a male parole. Tra poco ci sarà spazio anche per gli ascoltatori, vi rinnovo l'invito, 800240024 il numero verde, messaggi 349-238-6666. Ma cosa stava dicendo ancora Mourinho con Sky? Sono 20 minuti mi sembra a me la energia, la qualità di Scholes, di Giggs, che in questo momento non mi sembra molto bene, manca Ferdinand dietro, non mi sembra la stessa squadra, però sarà ancora una partita molto difficile per un Porto che ha fatto una grandissima gara a Manchester, però mi sembra ancora non lo so, dello stesso modo che si può dire Barcellona-Chelsea in semifinale, perché non c'è nessuno dubbio, in questo momento non mi è sembra sicuro. Che il Manchester ancora, grazie. No, il Manchester può farlo. Ciao. Quindi siamo passati a parlare della Champions League, noi invece torniamo ai temi del campionato. In attesa di altre voci ai microfoni di Sky che vi faremo sentire in diretta, andiamo a Verona, dove c'è Andrea Trari che ci racconta la vittoria del Milan, sofferta e non bellissima. Andrea Trari, buonasera. Era Carlo, esattamente, non bellissima la vittoria, però tre punti pesanti per il Milan, che ha presentato al Bentegodi un Kakà decisamente sottotono, un Seedorf che si dice che in questo centrocampo così troppo rinforzato così qualcuno avrebbe preferito dell'altro, però è stato proprio lui, l'olandese, a decidere il match. Un Milan un po' scombinato, onestamente, con Pato arretrato sulla fascia, con Sedor sull'altra fascia, un po' improvvisato mi è sembrato. Andrea, ne parliamo tra un attimo con calma, sentiamo prima Prandelli in diretta con Sky dopo la vittoria della Fiorentina. Sì, rispetto a prima abbiamo concesso delle occasioni importanti al Cagliari. Però la concentrazione c'era? No, concentrazione c'era, poi su 2-0 la partita sembrava finita, invece anche lì abbiamo concesso una palla che potevamo gestire meglio, però al di là di questo la squadra è nettamente ripresa, ho visto molto più ordinata, abbiamo fatto anche delle buone giocate e quindi sono soddisfatto chiaramente. E se aveva un dubbio era quello tra Pasquale e Vargas, e poi alla fine ha fatto giocare Pasquale nel primo tempo, Vargas nel secondo, l'hanno ripagata. Sì, così è contento tutti, quindi non abbiamo critiche. No, Manuel sta facendo bene, Manuel Pasquale sta facendo bene, lo stesso si dica di Vargas. Davanti a Pasquale magari è un po' meno preoccupato della fase difensiva e si è proposto bene, è entrato, si è proposto bene. Poi vi raccontiamo anche la gara di Firenze. Beh, Pasquale e Vargas sono stati gli autori dei due gol viola per il Cagliari assegnato nel finale. Ragazzo, anche qui partita chiusa dal Cagliari, anzi giocata per larga parte dal Cagliari in inferiorità numerica, perché al 20° secondo tempo è stato espulso Agostini, doppio cartellino giallo per lui. Tutto onestà, una Fiorentina che Prandelli dice in ripresa, ma che avevo visto meglio domenica scorsa. Oggi la gara della Fiorentina non supera di molto la sufficienza, anche se i tre punti sono pesantissimi, basta leggere la classifica. Torniamo invece alla partita di Verona, dove Andrea Trari ci stava raccontando di un Milan un po' scombinato, no? Si partiva con Inzaghi là davanti, dietro un Kakà ancora opaco, Pato molto lontano dalla porta e molto decentrato da una parte, Seedorf un po' fuori ruolo dall'altra, per un Milan che non ha convinto. Esatto, parlare di esperimenti a metà aprile è un po' tanto. Così, quasi anacronistico, però insomma, se contano i tre punti sono arrivati. Il Chievo invece veniva da un buonissimo momento, soprattutto da un grande pareggio in rimonta a casa della Juve non più tardi di 6 giorni fa. Questa volta il Chievo, secondo me, ha fatto di più del Milan sicuramente nel primo tempo. Sullo 0-0 ha colpito una traversa con Pinzi, quindi magari fosse passato in vantaggio la squadra di casa, magari staremmo qui a parlare di un'altra partita. All'ottavo del secondo tempo, come vi dicevo, invece c'è stato questo tiro da 20 metri di Kakà che ha sbloccato il risultato. Poi la partita forse si è un po' addormentata, è stata ravvivata un po' dall'espulsione di Ancelotti, più che altro su una punizione a favore del Milan, ma che Ancelotti riteneva dovesse essere battuta in un altro punto. Mi pare fu la prima espulsione da allenatore per Ancelotti, quindi questa è una nota di colore. E la partita un po' si è stancamente portata al 90°. Da segnalare il buon pubblico del Bentegodi, mi pare in 30.000 stasera, quindi insomma almeno stasera, oggi pomeriggio, nella vigilia di Pasqua, è un buon dato, soprattutto quest'anno dopo che il Chievo aveva fatto un girone d'andata da praticamente ultimo in classifica, ha recuperato gioco, pubblico e entusiasmo, direi, nonostante la sconfitta odierna. Sì, ma una sconfitta che insomma alla fine, visti i risultati, preoccupa fino a un certo punto, credo, il Chievo, che comunque mantiene 4-5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, in cui oggi si trova il Bologna a 26 punti, è terz'ultimo, mentre il Torino ne ha 27, lo ricordo. Chievo che aveva anche pareggiato nel secondo tempo al 21°, punizione di Pellissier, ma c'è stata una deviazione di Bogdani che era nella mischia dell'area, una mischia creata dalla barriera, Bogdani che era in fuorigioco, quindi decisione giusta quella di Saccani. Sì, non stavo per dire, effettivamente si è alzata la bandierina del guardalinea, quindi decisione ineccepibile. Forse per il Chievo così magari un punto poteva essere utile. Sì. C'è la partita di Siena fra una settimana, Siena-Chievo, Siena che si è portato definitivamente al di fuori della zona retrocessione, quindi potrebbe essere così un punto per entrambi fra una settimana, che anche il Chievo potrebbe così risolvere anzitempo i problemi di salvezza, anche se con 7 gare da giocare, insomma, no, non si può essere tranquillissimi. No, sono tante 7 partite, anche se Bologna e Lecce sinceramente hanno una brutta faccia. soprattutto Lecce, che mi sembrava completamente perso il filo del discorso dopo l'esonero di Mario Beretta, ma anche il Bologna mi sembra davvero in caduta libera. Oggi ha giocato una partita da inguardabile, una partita da coprirsi gli occhi, quella giocata dal Bologna con il Siena, un 4-1 che non fa una piega. Grazie ad Andrea Trari dunque per questa vittoria del Milan. Ricordo, fino alle 18 siamo qui a raccontarvi questa 31esima di Serie A, a parlarne con voi se ne avete voglia. 800 24 00 24, numero verde. Sono già in linea Gianni da Parma e Stefano da Sanremo. Leggo volentieri questo messaggio di Luca da Milano, evidentemente arriva da San Siro questo messaggio. Tutto il primo arancio intrappolato perché i cancelli erano chiusi. Sono uscito dallo stadio ora, sembrava un Aisel, tutti ammassati, vergogna, scrive Luca. Sarà anche il caso di capire i motivi di questa situazione che si è venuta a creare. Anzi, se Luca riesce ad informarsi e a trasmetterci informazioni o presunte giustificazioni, siamo qui a raccoglierle e a diffonderle. C'è chi scrive anche: se la Juve stasera la rallenta, si trova un Milan galvanizzato alle calcagna. Questo è vero, ma infatti secondo me la lotta per il secondo posto rimane apertissima tra Milan e Juventus, mentre molto più aperta di quanto non sia la corsa verso lo scudetto, corsa che di fatto secondo me ormai non esiste più, a prescindere dal risultato di questa sera. È vero che tra una settimana c'è Juventus-Inter a Torino, però anche quella di oggi, al di là delle di un secondo tempo non bello, non mi è sembrato un Inter in difficoltà, come ci diceva anche Massimo Calegari da San Siro prima. Gianni Parma, buonasera. Buonasera. Dunque, vabbè, la fiammella io da juventino la tengo. Fa benissimo. Stasera la estingueremo probabilmente, anche se sarò allo stadio poi sabato sera. Sì. E io volevo sapere invece qualcosa di più, ne avevamo già parlato altre volte, sulla campagna acquisti, che secondo me non può prescindere dal discorso del Piero. Secondo me è un equivoco pensare che se 3-4 anni fa Capello lo teneva in panchina o faceva comunque molto turnover, adesso deve diventare un titolare inamovibile, sempre e comunque, e secondo me un allenatore... Se no si arrabbia, se non è titolare inamovibile lo levano, si arrabbia. Vabbè, si arrabbiava anche con Capello, ma era lo stesso. Sì. Dobbiamo fare un monumento a Del Piero, ci ha fatto vincere una Coppa Intercontinentale, ha partecipato ai mondiali, per carità. Però l'età incalza, la Juve deve vincere e deve avere dei giocatori intercambiabili di altissimo livello. Quindi un discorso di non possiamo avere un trequartista alla Diego, perché Diego non si confà i meccanismi perché poi va a pestare i piedi a Del Piero, non è da squadra e non è da allenatore, da grande squadra. Bisogna avere tanti campioni perché gli impegni sono tanti e anche con tanti campioni non è detto che si vince. Quindi secondo me l'equivoco è risolvere la personalità della dirigenza, dell'allenatore, che deve comunque mettere tutti, come si dice in estate, sullo stesso livello e non solo con le parole ma anche con i fatti. Sono d'accordo con lei, grazie a lei, sono d'accordo. Sono d'accordo e non aggiungerei nemmeno molto. Nel senso che Del Piero può essere molto utile anche per la prossima stagione della Juventus, ma non deve essere condizionante e non deve offendersi se vengono fatte delle scelte su altri giocatori, perché bisogna giustamente guardare al futuro e questo la Juventus deve saperlo. C'è Spalletti che sta parlando con Sky prima di andare a Sanremo. Spalletti. Il rinvio dal fondo, e si sono rivolti tutto all'arbitro, sono stati lì a protestare. Loro invece hanno battuto velocemente il calcio d'angolo, mentre tutti chiedevano poi, si è perso un po' d'attenzione su quello che invece deve essere il nostro comportamento, e ha trovato il primo gol. Da lì ci sono state subito poi la prima ammonizione, ci sono state subito un paio di situazioni che hanno determinato un po' di nervosismo. E c'è stato subito il raddoppio di Zarate, poi partita in salita, però la squadra si è riorganizzata bene e ha fatto molto bene in tutto il primo tempo. Alla fine del primo tempo io sono andato a chiedere, a parlare con Morganti di un episodio avvenuto poi al 15° del primo tempo, e è intervenuto Tarek. Questo è proprio il momento al quale si riferiva tra l'altro Spalletti. Questo è l'episodio che io sono andato a parlare, perché poi è un abbraccio di Lichtsteiner su Julio Battista in area, rigore sul derby, sempre nel derby, su Kwan con Bianchi. Era andato a ricordare quell'episodio lì, che è stata fatta differenza perché lui è lì vicino e lo vede bene questo episodio, per cui era andato a parlare di questo. È venuto Tare, ma non so ancora che cosa volesse, perché... E poi questo per specificare nel sottopassaggio tra il primo e il secondo tempo. Non è andata in maniera violenta, o me la volete avuta raccontare, però è venuto Tare a discutere, io gli ho chiesto che volesse, e Morganti, giustamente per quello che è poi l'importanza di una partita così, giustamente ci ha cacciato fuori tutti e due. C'è Tare che sta ascoltando, peraltro, Spalletti è arrivato adesso al nostro microfono. Glielo può dire, lui non sa che cosa dicessi, no, non ci sono problemi, gliel'ho detto anche a lui dopo, perché poi ci siamo anche dati la mano. Lui non sa che cosa dicessi io, e che poi come, perché Morganti si sa difendere da solo, come ha fatto, perché poi mi ha cacciato fuori, un allenatore e un accompagnatore, per cui la valenza poi di quella che è l'importanza a nostro sfavore delle due espulsioni l'ha evidenziata da solo. Invece lui è venuto a discutere non sapendo di che cosa parlavo e non sapendo poi io con Morganti quale sia il rapporto che ci abbia, e Morganti, siccome è un arbitro di grande personalità, lo sa da sé quello che fare, e ci ha cacciato fuori giustamente tutte e due. Queste le parole di Luciano Spalletti. Sto rivedendo questo episodio, c'è questo abbraccio anche piuttosto netto in realtà di Lichtsteiner su Battista, che era in anticipo su un cross dalla destra. appunto Spalletti è andato a chiedere spiegazioni, però Spalletti ha anche raccontato l'episodio del primo gol, che è quello che ha incanalato la partita. Ora ditemi, non era calcio d'angolo perché è stato lì una svista del guardaline, perché il calcio d'angolo da cui è nato il primo gol della Roma probabilmente era in realtà una della Lazio, scusate, era probabilmente in realtà una rimessa dal fondo, però valgono i nervi nel derby, e chi li tiene saldi di solito lo vince. Ditemi voi se è stato più grave questa svista. Non era facile da cogliere il rimpallo, però ditemi voi se è più grave la svista del guardaline o quella dell'intera difesa, che, come ha raccontato Spalletti, si perde in protesta e la Lazio batte il calcio d'angolo e segna 1-0. Ditemi voi. Sanremo, Stefano, buonasera. Pronto, buonasera. Innanzitutto, cari auguri a tutti di buona Pasqua. Reciproco, com'è il tempo laggiù in Liguria? Abbastanza, insomma, è un po' nuvoloso. Sta migliorando. Ma va bene, sì. Sta migliorando. Sta migliorando per Pasqua e Pasquetta. Esatto, speriamo almeno. Ascolti, io volevo dire due cose molto velocemente. La partita riguardo la partita dell'Inter di oggi è la solita Inter. È la solita Inter che quando va con due gol di vantaggio si addormenta, va a pigliarsi un caffè e poi quando si risveglia alle volte riesce a fare il terzo gol, alle volte non lo fa come oggi, va bene, ma fa lo stesso. Ma oramai da tifosi interista siamo abituati a questo ed altro. No, beh, insomma, negli ultimi anni non era proprio così, Insomma, negli ultimi anni non è più la solita Inter, quella solita di prima. Mi sembra un'Inter un po' più... fare partite un po' così. Ogni tanto sì, ogni tanto capita. Comunque io volevo dire un'altra cosa e chiedere a lei il suo parere. Io volevo dire, adesso sembrerà blasfemo da un tifoso dell'Inter parlare di Ibrahimovic, però io volevo dire, è vero, è un giocatore che fa parecchi gol e che ci farà vincere un altro campionato anche quest'anno, quindi questo non c'è dubbio, però mi dovete spiegare com'è possibile un giocatore con quella tecnica e con quella classe che tutti gli riconosciamo riesce a sbagliare ma dei gol assurdi, come col Manchester, come anche gli è successo oggi in giornata. Cioè, solo davanti al portiere riesce a buttarla fuori, magari da 30 metri ti fa il pallonetto che piglia l'incrocio dei pali. Io vorrei capire, secondo, dal suo punto di vista, che se intende di calcio, come può accadere una cosa del genere? Ma di tanto in tanto si sbaglia, Stefano, fa parte del gioco, probabilmente anche per la troppa sicurezza di Ibrahimovic sui suoi mezzi. Per esempio, oggi ne ha sbagliato una piuttosto facile, come lei ricordava, scegliendo una soluzione complicata tu per tu con Ameglia, palla che rimbalzava, Ibrahimovic ha accarezzato il pallone sotto, tentando il pallonetto, la palla è uscita. Anche l'eccessiva sicurezza nei suoi mezzi, però insomma di giocatori ricordiamo che Ibrahimovic sta molto migliorando, è molto migliorato dal punto di vista realizzativo. All'inizio della carriera era un grande giocatore, ma non un grande produttore di gol. Adesso è diventato anche un signor goleador, non dimentichiamolo. Poi la freddezza, la lucidità, l'istinto del killer ce l'hanno in pochissimi. Il rapporto occasioni da gol, gol realizzati, insomma, è quello che fa la differenza tra l'attaccante di razza e chi lo diventa come Ibrahimovic, che appunto, non dimentichiamo, era giocatore di grandi colpi ma non di grande capacità realizzativa. Adesso ne ha 20 con un rigore tirato, quello di oggi, non sono pochi. Grazie a Stefano da Sanremo. Prima di tornare agli ascoltatori, c'è già Moreno da Treviso in linea. Andiamo un attimo a Firenze per raccontarvi la vittoria della Fiorentina. Ubaldo Cianciulli ce la racconta. Una Fiorentina non brillantissima mi è sembrata quella di oggi, Ubaldo. Sì Carlo, buonasera. Una Fiorentina non brillante, una vittoria sofferta ancora una volta per la squadra di Gigliata. Sicuramente non sono partite per gente tranquilla, diciamo così, perché la Fiorentina non è riuscita a gestire il vantaggio di due reti e di due giocatori, ha rischiato almeno in tre occasioni di gettare alle ortiche questa preziosa vittoria che invece le permette di scavalcare il Genoa in attesa del posticipo. Foria è stato decisivo in queste tre occasioni, risultando ancora una volta il migliore in campo, un gradino sotto Jovetic, che oggi effettivamente è stato scoperto per, come è stato descritto tante volte da Pantaleo Corvino, come un giocatore che si gioca in modo rilassato, senza avere la pressione di Mutu, per intenderci, alle spalle, nel senso di dover far meglio di Mutu. Ecco, se riesce a giocare con lucidità e serenità, riesce a dare veramente il meglio di sé. Infatti il primo gol, quello di Pasquale, è stato realizzato grazie a un assist facile, però Jovetic ha domesticato il pallone nel migliore dei modi e ha diciamo brillato per molte altre giocate. Jovetic già il migliore della Fiorentina una settimana fa a Bergamo, dove era stata una Fiorentina più convincente rispetto a quella di oggi. Jovetic si è confermato sullo stesso livello rispetto a una settimana fa a Bergamo. forse anche qualche cosina in più, forse anche qualche cosina in più. Diciamo che te dicevi giustamente una partita dove la Fiorentina non ha brillato, un primo tempo è andato via diciamo in modo abbastanza regolare, un primo tempo di studio dove la Fiorentina cercava di fare la partita e il Cagliari era attendista. Nella ripresa all'ottavo minuto la rete di Pasquale, un grande diagonale sinistro su assist di Jovetic, però ha rotto questi equilibri. Il raddoppio di Vargas è arrivato al 40esimo a conclusione di un contropiede da manuale gestito da Donadel, ma Vargas era entrato in campo soltanto 13 minuti prima. Una partita che virtualmente era finita anche grazie alla superiorità numerica della Fiorentina, ma dopo 60 secondi su una dormita generale della difesa viola, Ragazzo, un giocatore di 17 anni e mezzo sardo, ha accorciato le distanze. Era subentrato a Matri 2 minuti prima. Subito dopo c'è stata l'espulsione anche di Canini, che ha spento le speranze del Cagliari di pareggiare. Prime reti in questo campionato sia dei due difensori Pasquale e Vargas che del 17enne Ragazzo. La Fiorentina, grazie a questa vittoria, sale al quarto posto in classifica. Il Cagliari resta comunque in zona UEFA, ben 10 cartellini gialli. Montolivo e Conti erano diffidati, quindi salterà una prossima partita. Agostini e Canini sono stati espulsi, una partita nervosa che ha avuto delle ripercussioni. Abbiamo avuto modo di sentire dall'ufficio stampa del Cagliari anche nel sottopassaggio che portava dal campo di gioco agli spogliatoi. Lopez ha rimediato un taglio alla fronte che è stato confermato anche dall'allenatore Allegri, che però non è riuscito a dare ulteriori informazioni in quanto non ha visto cosa è successo. Abbiamo sentito anche Pasquale, anche lui effettivamente ha detto: io ero in fondo al gruppo, non ho sentito delle voci, però non ho capito cosa sia successo. E effettivamente gli abbiamo raccontato noi quello che l'ufficio stampa del Cagliari ha detto, cioè che ci sarebbe stata una collutazione, una gomitata, un qualche cosa tra qualche giocatore della Fiorentina e Lopez, e quest'ultimo pare abbia avuto la peggio. Dopo partita tutt'altro che tranquillo. Sì, dopo partita tutt'altro che tranquillo, ma anche in campo insomma non se ne sono risparmiate. Tu facevi la conta dei cartellini che sono stati in effetti moltissimi. Grazie, buona Pasqua ad Ubaldo Cianciulli. Io vi do un'altra notizia prima di andare da Treviso da Moreno e a Genova da Fabio. Vi do una notizia bellissima che arriva dall'Inghilterra, dove, partita ancora in corso, il Manchester United sta vincendo 2-1 sul campo del Sunderland, ma non è questa la bella notizia. La bella notizia è che il 2-1 lo ha segnato di nuovo Federico Macheda, l'italianino di Sir Alex Ferguson. Gol di Scholes al 19esimo, pareggio di Jones al 55esimo e al 76esimo, come scrive Carlo da Genova. Io il gol non l'ho visto, scrive gol un po' fortunoso, però tac, timbro, ed è il secondo gol pesantissimo questo del ragazzino italiano. Moreno da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, sono Moreno. Niente, una cortesia, Carlo. Dica. Lei cosa ne pensa, volevo chiedere questo, sull'Inter, piuttosto di avere tutti quei giocatori che abbiamo là davanti, tipo Cruz o Crespo, Balotelli, che sono secondo me tutti giocatori come tipo prima punta, ecco, di prendere un giocatore, se eventualmente Rossi, quello che gioca nel Valencia, avere una famosa ala, perché l'ultima che secondo noi abbiamo avuti è stata Martins, e ancora non capisco perché sì, quella volta l'hanno venduto, ecco. Sì, un giocatore lei dice con caratteristiche differenti rispetto ai molti che ci sono già. Sì, secondo me sono gli attaccanti dell'Inter, secondo me hanno caratteristiche simili, perché il Ibrahimovic, il Cruz, il Crespo sono tutte prime punte effettivamente. Manca quel giocatore, diciamo, veloce, che potrebbe essere a suo tempo avevano Martins. Sì, ma da allora poi hanno giocato sempre con due torri. Beh, Martins era un giocatore con caratteristiche diverse da quelli attuali. Non mi sembrava, non mi sembra, la carriera che ha fatto poi in Inghilterra non legittima a pensare sia esattamente un mostro. Quindi una partenza da ricordare ma non da rimpiangere più di tanto, mi pare, quella di Oba Martins. Senz'altro l'Inter ha molti giocatori con caratteristiche simili e probabilmente potrebbe essere una indicazione di mercato importante. Sentiamo anche Fabio da Genova. Buongiorno. Buonasera, auguri innanzitutto a tutti i radioascoltatori, anche a lei. Dunque, sono un tifoso del Genoa, sì. Mi sto accingendo a muovermi per andare allo stadio un po' in anticipo. Sì. Oggi pomeriggio ho assistito ovviamente con trepidazione alle partite della Roma e della Fiorentina, contento da una parte, non contento ovviamente per la vittoria della Fiorentina, per quel che riguarda la posizione del Genoa per la Champions. Ma volevo chiederle semplicemente questo, mi preoccupa molto il fatto che chiaramente l'Inter, non avendo vinto, la Juve questa sera, non che venisse qua ovviamente per fare una partita, la Juve viene sempre a giocare per vincere, però è chiaro che potendo recuperare due punti sull'Inter e dovendo ancora avere la sfida diretta, potrebbero esserci delle motivazioni ulteriori in questo senso. Ecco, chiaramente sono un po' preoccupato dal mio punto di vista, al di là della partita che dovrà fare il Genoa, chiaramente. Grazie Fabio, adesso sa cosa faccio? Le faccio rispondere, rompo l'uovo di Pasqua e le faccio rispondere Da uno molto più illustre di me come Roberto Beccantini, inviato e penna di Punta della Stampa. Ciao Roberto. Buon pomeriggio, stavo qui guardando il teatrino fra il dito di Spalletti e di Tare. Cosa si stanno dicendo che ho abbassato la TV? Spiegano il problema che ha portato all'espulsione di entrambi nello spogliatoio. Sì. Spalletti ricordava Morganti il rigore dato alla Lazio in un derby precedente per un fallo identico a quello per cui nel primo tempo aveva dato rigore a Battista, si è intromesso Tare, lì è diventata la storia di un dito mulinato da Tare, e Spalletti avrebbe detto a Tare mettiti in un altro posto, capito? Quindi, vabbè, mi sembra roba da basso impero. I cinesi ci hanno sempre suggerito: non guardate il dito che indica puntini, ma la luna, almeno a Pasqua, almeno la vigilia di Pasqua. Roba da basso impero, Roberto. Senti, ha ragione l'ascoltatore di oggi, l'ascoltatore di prima, genoano, che sta andando allo stadio ad avere paura delle motivazioni della Juventus dopo che l'Inter ha fatto questo. È chiaro che la Juventus, garantisco, una motivazione in più ce l'avrà, hai capito? Vediamo se basta. Sicuro, è chiaro, vincesse tornerebbe a 7 punti e farebbe il ragionamento: ci mancano 7 partite, ho l'Inter in casa sabato prossimo, eccetera eccetera. Sai, dal dire al fare c'è di mezzo il Genoa è chiamato, dopo la vittoria della Fiorentina, anche lì molto discussa in base alle rivelazioni post match, la Fiorentina l'ha scavalcato. È in vantaggio negli scontri diretti, 1-0 a Firenze, 3-3 a Marassi, quindi anche in pareggio porterebbe il Genoa al quinto posto. Certo. Capito? Certo, a parità di punti. Per cui insomma è chiaro che secondo tutti, diciamo così, gli esiti delle partite pomeridiane hanno caricato Genoa e Juventus di stimoli, speranza che poi questi stimoli rimangano nei 90 minuti e non esondino come sta succedendo. Senti Roberto, oggi mi è sembrato che la primavera si sentisse. Ho visto squadre non brillanti, ho visto un sacco di cartelline, ho visto un sacco di gol negli ultimi minuti delle partite, squadre anche un po' in difficoltà fisica. È stata solo un'impressione televisiva la mia. Sai, il primo caldo e poi tante cose. Poi guarda, io ribadisco la bellezza selvaggia del calcio, a proposito, e cito Chievo-Milan. Veniamo dalla tripletta chirurgica di Pellissier alla Juventus, ti ricordi soprattutto il secondo gol, con il bisturi affondato a un centimetro dal quanto proteso di Buffon. Bene, oggi ha sbagliato un gol a un passo dalla porta, capito? Questo è il calcio, non solo questo è il calcio ovviamente, però anche questo, capito? Per cui il Milan zitto sta tornando sotto, quantomeno alla Juventus. È stato espulso Ancelotti, anche questa notizia che rientra nel discorso che facevi, può essere la primavera, può essere che ci avviciniamo a un periodo in cui è chiaro che le sentenze mettono in discussione i proclami. Per cui sai, i nodi, beati per chi possono permetterselo, vengono al pettine. Ma guarda, Ancelotti di pazienza ne ha fin troppa, a rispondere tutti i giorni a quelli che gli dicono allora vai al Chelsea, vai al Real Madrid, e lui tranquillo tutte le volte innesta lo stesso disco, però dopo un po' ti girano. Posso capire. E oggi non ha disegnato bene il Milan, oggi non ha disegnato bene il Milan, perché mi è sembrato un Milan un po' scombussolato. Comunque Carlo, guarda che se giochi col Chievo del 2009 molte squadre sembrano disegnate male, perché il Chievo sta giocando bellissimo calcio, solo che chiaro, si pretende che una grande squadra come la Juventus, come l'Inter stessa, che fece fatica, ricorderai, ed era il Chievo all'inizio della gestione di Carlo, vincesse, certo, in forza di giocatori che ha con più agio, però no, il Chievo oggi è una delle squadre più in forma e più equilibrate di tutto il nostro campionato. Roberto, ti lascio al dopo partita, alle voci, alle dita puntate di Tare, di Spalletti e quant'altro, e soprattutto a Genoa Juventus di stasera. Grazie, buona Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. Buona Pasqua, un abbraccio a Roberto Beccantini. Sentiamo una battuta di Carlo Ancelotti con Sky. Adesso se ne parlerà, perché abbiamo già cominciato, siamo già nell'occhio del ciclone, se ne parlerà. Mi auguro spero solo fino a fine maggio. Solo la partita di oggi, allora, vuol dire? Possiamo deviare su questo. No, sono subito partiti da lì, da Chievo, dal Chelsea, da prima ancora di parlare di Milan Chievo. Poi dite voi se è uno o no, non posso saltare i nervi. Poveretto, sentiamo. Dopo si va in ferie. C'è la foto di Abramovic. Sì. Ho capito. Che ci va solo Mourinho in ferie, no? Ci vado pure io. Ecco. Ma ci va l'allenatore del Milan? A quello che voglio fare. Ancora. L'allenatore del Milan. Benissimo, chiudiamo, capito. Ho già capito. Allora torniamo oggi. L'allenatore del Milan minuti, ha scelto di giocare basta. Con un altro modulo, quello che nel finale del Lecce aveva dato risultato, 4-2-3-1. All'inizio forse qualche problema in più, ma c'è stata una grande azione da gol. No, abbiamo giocato diverso per cercare di giocare, di non essere accoppiati sul campo, perché il Chievo giocava nella stessa maniera nostra. Quindi abbiamo cercato di variare qualcosa, di mettere Pato un po' più largo. Devo dire che il primo tempo Pato ha fatto delle ottime cose e credo che c'è stata una gestione della squadra intelligente. Non stiamo giocando bene, questo è chiaro ed evidente, però c'è una gestione intelligente delle partite. Per giocare bene credo che dobbiamo aspettare la qualità dei giocatori, di Kakà soprattutto, di Pato, per mettere qualità nel gioco. Da un punto di vista difensivo stiamo andando bene, ora bisogna mettere qualità nella squadra per giocare meglio. Così Carlo Ancelotti. Dunque, noi siamo in chiusura di quest'ora di programma insieme. Domani torniamo, approfondiremo la giornata di campionato che abbiamo visto oggi e parleremo anche di altro, naturalmente. Poi lunedì c'è Gigi Garanzini, domani avremo un'ora dalle 17 alle 18 ed è tutto, perché anche noi accorciamo un po' gli orari per festeggiare la Pasqua, e poi lunedì c'è Gigi Garanzini in diretta dalle 14 alle 15 come al solito. Grazie a Gigi Borghi in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Adesso c'è il GR. Buona serata e buona Pasqua a tutti.